Va ora in onda Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Bene, sono le 12:18 e 50 minuti in questo momento. CRM Radio Carta e Penne, studio Filippo Glorioso, alla console come sempre il nostro grande amico Raul Bova. Allora, puntata all'insegna di caldo, del caldo, non del caldo di temperatura esterna, ma di caldo proprio di incendio dovuto al fuoco. Ne parleremo tra poco con due eminenti esponenti della comprensorio Madonita. E intanto i danni sono veramente ingenti, capiremo dalla loro viva voce di quanto, per quantizzare a quanto ammontano i danni e gli ettari di terreni che sono stati distrutti letteralmente, tra questi anche delle case, dei capannoni e anche purtroppo, ahimè, degli animali, oltre la fauna dei boschi che sono andati in fumo, che naturalmente sono stati letteralmente trucidati. È un termine che io uso perché di questo si tratta, sono incendi di natura dolosa e per cui uccidere degli animali inermi, anche della fauna, delle Madonie, dei boschi delle Madonie, insomma, è una cosa abbastanza grave, a parte la mancanza dell'ossigeno, perché voi sapete che di giorno la flora emette, quindi gli alberi emettono ossigeno, di notte anidride carbonica, quindi è un polmone verde di migliaia di ettari che va letteralmente in fumo. Ci vorranno degli anni prima che si possa ricostituire la flora e la fauna in questi luoghi ormai desertici, io li definisco addirittura lunari, perché questo è l'impatto quando si arriva in un contesto dove c'è stato un incendio e vederlo prima tutto, insomma, in vegetazione, il verde bello intenso, gli alberi, le chiome eccetera, quando poi ci ripassi dopo che è passato l'uragano, si è scatenato l'inferno, è il caso di dirlo, una volta che passi post bellum, dopo la guerra, dopo il disastro, insomma, veramente è un panorama sconcertante, lascia basiti, ma soprattutto è veramente un campo, sembra lunare, di atterrare, di fare un allunaggio. Fatta questa prima considerazione, tra poco ne parleremo con degli esponenti che sono parte in causa e addirittura dopo il danno anche la beffa. Pensate che la provincia regionale ha chiesto il rimborso delle spese di carburante per le autobotti che sono intervenute per lo spegnimento del medesimo incendio. Qualche polemica è scoppiata anche in maniera veemente tra qualche sindaco, la protezione civile, il corpo forestale dello Stato, insomma la macchina organizzativa che doveva prevenire e poi successivamente intervenire allo spegnimento del medesimo, con ringraziamenti dovuti da parte degli stessi amministratori, dei cittadini, per i vigili del fuoco, per la protezione civile, per alcuni reparti del corpo forestale dello Stato, ma qualche strascico di polemica c'è stata, anche abbastanza forte, ma oggi non vogliamo entrare nel merito di queste polemiche, intendiamo parlare invece di argomenti che riguardano appunto i danni subiti da questi comuni, San Mauro, Castelverde e Cefalù nella fattispecie. Dovremmo avere al telefono, perché sono impegnati in altre missioni, i due sindaci, quindi ci auguriamo che siano pronti a rispondere ai nostri microfoni. Parleremo dei danni, di quantificare i danni, se è possibile prevenire, insomma parleremo di quello che è successo, come è successo e se era possibile evitare tutto quello che è venuto poi in seconda battuta. Intanto una bella notizia ci giunge ogni tanto dal calcio, questo martoriatissimo calcio: il Milan ieri sera ha vinto la sua missione fuori dalla propria terra, quindi è andato a vincere in quelli di San Pietroburgo per 3-2, vinceva 2-0, poi c'è stata una rimonta, un po' di blackout da parte dei giocatori del Milan, da parte della squadra, lo Zenit, di allenata tra l'altro da un allenatore italiano, Spalletti, ma poi alla fine non si è capito bene, ma secondo me è stato più autogol che gol di Pazzini. Comunque il Milan è riuscito ad accaparrarsi i suoi 3 punti importanti, quindi secondo in classifica con 4 punti. Giusto per restare in tema di truffe, si è parlato tanto di Regione Lazio, adesso si parla di Regione Piemonte, Regione Sicilia, ma guardate che anche i truffatori intascano l'ICI, pensate, beffate pure comuni siciliani. In cella Giuseppe Saggesi, capo della società di riscossione tributi, a manco di oltre 100 milioni da Termini ad Augusta, diverse amministrazioni dell'isola hanno incassato meno del dovuto. Allora, vedete, poi la provincia va a chiedere danni ai comuni, il rimborso del carburante, i cittadini devono andare a pagare le tasse, però poi i soldi insomma vanno a finire nelle tasche di qualche furbetto di quartiere, una volta si chiama Fiorito, un'altra volta si chiama Giuseppe Saggesi, un'altra volta si chiama in un altro modo, ma gira e rigira, insomma chi la prende in saccoccia, per usare un eufemismo, siamo sempre noi comuni cittadini che la mattina dobbiamo arrabattarci per portare a casa un pezzo di pane, quel moldica, perché che ormai tutto il pane intero c'è chi se lo spartisce dalle regioni alle province a andare a finire anche al governo centrale, con tutte le tasse che ci hanno messo su come noi su come possiamo vivere, insomma sul nostro vivere pesano e gravano passati il 65% di tasse, una cosa insomma abnorme. Io direi a questo punto di parlare di ringraziare uno dei tanti sponsor che supportano questa trasmissione, di Italfinestre. Pensate, producono porte di interni su richieste e su misura, finestre e persiane in PVC in alluminio, le zanzariere che d'estate sono fondamentali. Vi do un numero: 329 45 15 691. Poi c'è un ampio assortimento di maniglie, produzione la trovate in Contrada Baita, e invece lo showroom è in via Roma. Dove lo trovate? Naturalmente in provincia di Palermo, a Cerda, che è un paese di tutto riguardo e molto florido. Quindi Italfinestre, andate, fate le vostre prenotazioni anche telefoniche, fissatevi degli appuntamenti e poi naturalmente cercate di scegliere il meglio per la vostra casa. Detto questo, direi di passare la linea un attimo alla regia per un brevissimo stacco musicale, poi parleremo di un evento che ci sarà qui a Cefalù, la cronostorica Cefalù Gibilmanna Memorial Angelo Castiglia, Cefalù promo sport in Ormanni, con il patrocinio del Parco delle Madonie, Regione Siciliana, Città di Cefalù, l'ACI, Comune di Gratteri e la Provincia Regionale di Palermo, un radio ufficiale CRM, naturalmente Happy Radio. E allora l'appuntamento per il 6 e 7 ottobre, andiamoci a vedere questa cronoscalata, ormai storica davvero, ed è un memorial appunto in memoria di Angelo Castiglia, dal 6 al 7 ottobre 2012, quindi siamo alle porte, mi raccomando, andiamoci, così ci divertiamo, ci divaghiamo un po', non pensiamo agli aggravi che naturalmente nel quotidiano ci arrivano addosso, veramente, come per esempio le tasse. Linea alla regia. È fresca questa sera del secolo XXI, su questa pattumiera di fango e di miracoli, la vita incandescente, oh, è istinto primordiale, chi non si è fatto male non l'ha vissuta mai. Sopra il comodino un Cristo personale ci può giustificare e ci perdonerà. Una benedizione non ha mai fatto male, hai un Cristo personale che ti perdonerà. Lui ti perdonerà. All'ombra della luna Si cercano altre vite, prendendo a schiaffi la fortuna, e liberando i diavoli. Un brindisi al veleno, oh, a chi ci vuole male, e a questa primavera che non ritorna. Bene, hai un Cristo personale che ti perdonerà. giornale c'è un Cristo personale che ci perdonerà. La sua benedizione è internazionale, un Cristo personale che ci perdonerà. Perdonerà. 12:29:49 in questo momento, siamo rigorosamente in diretta con Carta e Penna in studio Filippo Glorioso. E come annunciato prima, abbiamo fatto un capaletto d'inizio parlando degli incendi che ci sono stati quest'anno, soprattutto in due centri delle Madonie, Cefalù e San Mauro Castelverde, dove quest'anno veramente è stata una ecatombe. E come annunciato prima, nei nostri microfoni il sindaco di San Mauro Castelverde, il dottor Mario Zolini, che ringrazio per aver accettato l'intervista. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a te, buon ascolto a tutti. Allora, sindaco, intanto facciamo, come dire, il consuntivo finale di una estate disastrosa, piena di incendi, sicuramente di natura dolosa, nel comune di San Mauro Castelverde. Che cosa è successo? Cosa pensate che possa essere scoppiato nella mente di qualcuno? Allora, io spero che queste tue parole vadano in cielo. Consuntivo finale, cioè significa che da oggi non dovrebbe accadere più niente. Ci auguriamo. Fino a ieri ci sono stati incendi. Sì. Veramente un impazzimento, un apocalisse. Noi con la Protezione Civile regionale stiamo cercando di fare una valutazione approssimativa. Fare danni molto approssimativa, perché sì, sai, non è come quando brucia una macchina che sai quanto vale. Dici, ma su per giù, ad occhio, sindaco, quanto pensiate che si sia arrivati come danni? Quantificarli non è possibile. Allora, ci sono una trentina di aziende colpite a vari livelli, animali morti, interi territori devastati. Noi chiediamo anche lo stato di calamità. Pronto? Pronto? E mi sa che è caduto. Poi non si può andare a scolare, cioè, capisci? Poi si innesca un circuito paradossale per cui chi è che ha avuto magari l'incendio poi non può nemmeno più frequentare il suo terreno. Sindaco, ti fermo un attimo. Sì. Mi senti? Io ti sento un pochino a tratti, però c'è qualcosa, forse è dovuto a un fattore tecnico. Pronto? Sono fermo, sono seduto fermo. Ah, perfetto, adesso ti sento bene. Allora, ti volevo chiedere questo: siccome trattasi di incendi dolosi, è possibile che i comuni, anche mettendosi insieme, perché l'Unione fa la forza, possono chiedere alla Regione prima, ma al Governo centrale poi, lo stato di calamità naturale? Ci sono i presupposti? Allora, è un atto che noi abbiamo fatto ieri, già sì, come Giunta di San Mauro, la richiesta è partita ieri. Poi stiamo valutando anche con dei legali la possibilità di costituirci parte civile. Sì. Ma come tu sai, questo è più un fatto simbolico che un fatto che ha un ritorno economico, sì, nel senso che difficilmente riusciremo ad avere, eventualmente dovessero condannare qualcuno, ad avere un ritorno economico. Invece la dichiarazione di stato di calamità è più probabile. Viene riconosciuta che poi le aziende vengano in qualche modo aiutate per risarcire al danno subito. Questo è importante, perché già un'economia disastrata e disagiata, quando piove sul bagnato è la fine. C'è un'altra beffa, sindaco, e sicuramente tu che fai il mio stesso mestiere e lo fai ad alti livelli ti sei reso conto che è arrivata l'ultima tegola nella testa, cioè la provincia regionale chiede i danni o quantomeno il rimborso dei carburanti per le autobotte che sono intervenuti nell'incendio. Allora, io ti dico che la cosa è paradossale, anche perché nei momenti di concitazione... No, secondo me è demenziale, più che paradossale, demenziale. No. Ti dico come sono andate le cose, per evitare che ci siano anche fraintendimenti, perché mi arriva una nota della provincia in cui mi dice: come da accordi presi lei deve pagare. Dopodiché io ho parlato con l'ingegnere Serio, con cui nei momenti dell'incendio della concitazione ci siamo sentiti al telefono. È chiaro che non facevamo fax o cose burocratiche, che hanno tempo mentre un medico usciria o un malato se ne va. Certo. Allora l'ingegnere Serio mi ha detto: sì, sto mandando un autobot, mi faccia la cortesia di fargli fare un rifornimento in loco. Traduzione per me: il rifornimento è riempire l'autobotte d'acqua. Potevo pensare, tranne che mi chiedesse di riempire. Dopodiché l'altro ieri mi chiama e dice: allora i rifornimenti sono ben tre, sì, e sono 180 litri, 120 litri, 80 litri. Per un ammontare di? Circa 300 euro. Ma insomma, di che stiamo parlando? Ah no, perché qua la cisma io mi rifiuto di pagare, sia nel merito che nel metodo. Cioè io non ho i soldi, né ritengo che Allora aspetto che mi chiamino quelli dei Canadair e vogliono farti il pieno pure da me. Ma che fa, scherziamo? A proposito dei Canadair, Mario, perdonami, ma sai, io non voglio entrare nelle polemiche perché voglio dire, non ora, avendo... Ho un'altra notizia, fammi una domanda io ti No, dunque, l'altra sera ho ascoltato una diatriba, te lo dicevo fuori onda, tra il tuo collega La Punzina di Cefalù e un esponente, voglio dire, delle istituzioni che secondo quanto riferiva in diretta radiofonica La Punzina non si era comportato in maniera, voglio dire, proprio professionale. Questo lo lascio alla Punzina e naturalmente agli ascoltatori trarre le dovute conclusioni, ma non abbiamo dati di fatto certi in mano, per cui non possiamo parlare, siamo un attimo zitti su quello. Ma un dato di fatto è certo, può smontare un Canadair con la questione dell'orario, rientrare e non partire più? Cioè, voglio capire come funziona. Assolutamente no. Allora, ti aggiungo una notizia. Giovedì mattina, mentre io ero nelle campagne di San Mauro con Forestale, ufficio tecnico del comune, il mio vice sindaco, gli assessori, che cercavamo, come dire, rammuttare un fumo castagna, visto che non avevamo ancora il Canadair, alle mie ripetute richieste il funzionario di prefettura, che poveraccio non aveva nemmeno dormito perché era da solo e aveva ricevuto chiamate da tutti, mi fa signor sindaco, ma lei lo vuole capire che con la spending review dal 15 settembre i 15 Canadair che ci sono nel servizio nazionale vengono dimezzati a 7 perché si ritiene che la stagione sia finita, come la battuta che ho fatto poco fa, speriamo che la stagione degli incendiati sia finita. Ma quindi tu il decreto stabilisce 15 settembre, incendi non ce ne possono essere più, quindi tu già dimezzi la flotta. Scusami Mario, a memoria d'uomo, pronto? Sì. Scusa se ti interrompo, dico a memoria d'uomo, io ricordo che anche nel mese d'ottobre ci sono stati degli incendi devastanti nel comprensorio delle Madonie. Dopodiché mi dicono, abbiamo chiesto il Canadair a Genova, non lo vogliono muovere. Ci si guardi che oggi a Genova ci sono 15 gradi e piove a dirotto, non credo che abbiano rischio di incendi. Fatelo trasferire. E poi sono arrivati i Canadair dalle altre regioni, ma c'è voluto una giornata di tira e molla. Ripeto, loro sono il terminale di uno Stato che non funziona, la prefettura, perché lui non aveva il potere di dire volate comunque, è giusto? No, su questo però non ci piove. È paradossale, è come se ti dicesse qualcuno, dice guarda, oggi è il primo giorno d'inverno, mettiti la maglia di lana, ma ci sono 30 gradi, non è importante, è il primo giorno d'inverno, mettiti la maglia di lana. Però no, dico, ci sarebbe... È stata finita. Bisognerebbe andare a Zelig e scrivere dei copioni, perché veramente rasentiamo il ridicolo. Sì. C'è una regione di svariati milioni di ettari di terreno, spesso e volentieri, cioè la maggior parte delle colture sono agrumi, insomma, olivicoltura, eccetera, per cui ad altissimo rischio di incendi, e poi la parte boschiva è la predominante, se non erro. Va bene, come si fa a tenere 7 Canadair e poi a settembre, quando ancora il caldo, siamo a ottobre, ancora si fanno 27, 28, 30 gradi, ma stiamo ragionando o facciamo le cose giusto per farle? Allora bisognerebbe mandare a questi geni, a questi burocrati, una circolare intitolata le stagioni non sono più quelle di una volta. Bravo. L'estate dura anche oltre il previsto, purtroppo ve ne dovete fare una ragione. Ma ci sarebbe un'altra cosa, e qui entriamo un po' nella politica, ma io sono scevro nel dire, ormai tutto fa brodo, Mario, secondo me non ci sono più ideali, non ci sono più partiti, qui tutti il magna magna è diventato qualcosa di straordinario. Ora dico, siccome mancano sempre questi belletti fondi per fare le strade, per togliere le frane, per spegnere gli incendi, ma com'è che poi, voglio dire, i fiorito della situazione, gli altri i soldi ce li hanno? Non ho capito bene come funziona, io sai, non sono un politico, vorrei che tu mi erudissi in questo. Io una cosa, per esempio, ieri tutti hanno applaudito alla decisione della Camera che in prima lettura, poi dovrà fare in seconda lettura, ha accettato la riduzione dei parlamentari regionali da 90 a 70. Io vado controcorrente, dico sono contrario, perché i costi della politica non si abbattono riducendo gli spazi di democrazia. Per me i parlamentari possono restare 90 a diventare anche 100. Non c'è motivo però che guadagnino 15-20 mila euro al mese. Beh. Un bravo deputato regionale, peraltro che si muove nella regione, non è che deve andare a Bruxelles, può benissimo campare con 3.000-3.500 euro al mese, che è il tipo di quello che guadagna un operaio, che è il quadruplo di quello che guadagna un precario. Quindi la politica la puoi fare anche a costi bassi, come io, tu lo sai, faccio il sindaco, non avendo preso l'aspettativa alla RAI, mi prendo un rimborso spese che non copre nemmeno le spese di carburante. Ma se uno lo fa per mettersi a servizio della comunità, lo fa. se lo fa perché invece si mette in politica perché non ha un mestiere, non ha le arte, né e questo è il guaio secondo me, guarda, molti accanzano il discorso che la politica è una professione. No, no, ed è sbagliato, Mario, ed è sbagliato. Tu che ora non voglio dare nomi, c'è un processo in corso per, sulla Fondazione Federico II. Fino al giorno X il signor Filippo Glorioso prendeva un rimborso spese di 1000 euro al mese. Sì. L'indomani viene un altro signore, di cui non faccio il nome, ma ci sono le casse giudiziarie, e gli danno 15.000 euro al mese. Cioè viene un compenso che viene moltiplicato per 15. La risposta dell'allora presidente dell'Assemblea regionale, chiamato al magistrato, dice: ma com'è che siete passati? Cioè, ma sa, quello di prima si prendeva un rimborso spese perché era un docente universitario, quindi lo faceva a titolo gratuito. Quest'altro invece lo faceva a tempo pieno, essendo un deputato trombato gli dovevamo garantire lo stesso tenore di vita. Perfetto, e mentre ai cittadini noi non garantiamo un tubo, se non pagano l'ICI con 400, l'IMU con 450 euro al mese, molti pensionati, tu lo sai meglio di me, togli 400 euro, come cavolo fanno queste persone a campare? Cioè ci vuole anche un criterio. Io per esempio del professor Monti, che stimo come professionista, ma come politico molto meno, visto che è senatore a vita. Infatti non è un politico. No, no, adesso è politico, è senatore a vita, tesoro mio, dovrebbe rinunciare al compenso. Perché non rinuncia, scusa? No, dico, non è un politico nel senso, non è entrato nella testa del fatto che tu non fai il ragioniere, tu devi amministrare una comunità di 60 milioni di abitanti, quindi non puoi fare i conti ragionieristici. Devi capire la situazione del precariato, dei giovani, di quelli che perdono il posto di lavoro, dei pensionati che non arrivano alla fine del mese. Questo devi capire. Mario, io ho un terrore, te lo dico da amico, ma te lo dico anche da giornalista, chiamalo come vuoi. E, come tu, io giriamo in mezzo alla gente, ascoltiamo. Io ho il terrore che prima o poi scoppi qualche bomba, cioè che la gente stanca, esasperata e quant'altro, vedendo quello che succede nei palazzi, i cosiddetti casti, non solo, qua va a finire insomma a 48, Ci saranno i vespri siciliani, perché la gente, se tu a un cane gli togli l'osso dalla bocca e lo lasci affamato, capisci bene cosa succede. E allora bisogna, secondo me, ricominciare tutto da capo. Come disse Enzo Torto, la persona che io stimo come professionista, ma anche come uomo, dove eravamo rimasti? Ecco, tornare qualche anno indietro e fare veramente politica seria. Senti, per il futuro invece cosa si prevede per evitare questi disastri a partire dalla prossima estate? Cosa avete pensato voi sindaci del comprensorio di porre in essere con la prefettura, di concerto anche con le amministrazioni regionali e nazionali? Ma guarda, io proporrò ai miei compagni di sventura, anche i sindaci del Messinese, eccetera, di vederci, di fare una sorta di conferenza dei servizi. Bravo. Per capire che cosa possiamo fare, non per impedire il fenomeno ai noi, perché sarebbe fantascienza, sai che non è possibile, territori così vasti non sono nelle condizioni di controllarli militarmente, però per far sì che si agili, cioè che non si arrivi più a questi livelli, anche perché da qui a un altro anno non c'è più niente da bruciare. Il dato è stato tratto, in sostanza. Sì, dico, non c'è più niente da bruciare. Disastri enormi. Speriamo che la vostra richiesta di cui facevi cenno prima tu, per dare aiuto a chi giustamente ha perso tutto quello che aveva e non riesce a sbarcare più il lunario, che lo stato di calamità naturale vi venga accolto. Per far questo, secondo me, bisogna che mostriate i muscoli, perché se no questi signori non credo che scenderanno a miti consigli. Se volete fare paragoni, ma se un paese, diciamo, viene preso da un'alluvione, di chi piovasse, eccetera, lo fango si leva, ma quando tu bruci interi boschi per ripristinare lo stato che c'era, passano 50 anni, non è che lo alberello lo pianta. La vita di un uomo, Mario. È giusto. La vita di nuovo. Vi faccio a tutti quanti voi, adesso sentirò anche il tuo collega La Punzina, che oggi si sta un po' rilassando, è al matrimonio del fratello, a cui faccio tantissimi auguri, però voglio dire, vi auguro veramente, perché sono momenti terribili, non vorrei essere al vostro posto, perché avete posti di responsabilità, ma cercate in tutti i sensi, la popolazione in questo presumo sia dalla vostra parte, non potrebbe essere che così. Certamente. Ecco, quindi mettetecela tutta, la cittadinanza, e se è il caso fare anche delle proteste molto veementi, perché a questo punto, voglio dire, non c'è più trippa per gatti, qui siamo in trincea, stiamo combattendo, ma non possiamo combattere solo unilateralmente, bisogna combattere insieme, altrimenti grazie è finita. Grazie per la vostra disponibilità. Grazie. A dare spazio ed eco a queste vicende tristi, purtroppo. Buona giornata. Grazie a te, Mario, ti auguro buon lavoro a te. Dunque, era Mario Azzolini, sindaco di San Mauro Castelverde. Avete sentito, insomma, stanno cercando di quantificare i danni che ha prodotto questi incendi di natura naturalmente dolosi. Bisognerebbe capire cosa si potrebbe fare per il futuro, se la tecnologia può intervenire a favore della salvaguardia della flora e della fauna, ma questo bisogna un po' che siano un po' gli scienziati e gente che insomma è preparata nello specifico a capire cosa si può porre in essere per arginare quanto più possibile questo fenomeno che, ahimè, in Sicilia, in Liguria, in Sardegna e anche nelle Calabrie, insomma, ormai è diventata una consuetudine estiva, ma a forza di bruciare ci ridurremo in cenere anche noi. Dicevo, prima di ascoltare l'altro sindaco di Cefalù, il sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina, che l'altro giorno ha avuto un conflitto verbale nei confronti di un esponente delle istituzioni locali, al quale insomma ha rimproverato alcune situazioni, poi non sta a me rimbangare quello che è successo, ma sicuramente qualche defiance c'è stata, per colpa di chi, non sta a noi stabilirlo, sarà la magistratura, sarà lo stesso sindaco facendo degli esposti e quant'altro, sarà la controparte a difendersi con le dovute cautele, ma non spetta a noi dare giudizi. Il giudizio è che purtroppo ci vengono a mancare migliaia e migliaia di ettari di macchia mediterranea, di paesaggio stupendo, meraviglioso, e che hanno ridotto tutto ad un cumulo di macerie. Avete sentito il sindaco di San Mauro, non si riesce a quantificare i danni. 30 aziende sono andate letteralmente distrutte, mettendo sul lastrico molta gente. Allora, se vi capita di essere a Santo Stefano di Camastra, andate a trovare Zaffiro Gioielli, perché Zaffiro Gioielli è un atelier straordinario dove trovate le liste nozze, poi c'è il negozio del Tunno, che è favoloso, le bomboniere esclusiviste Pignatelli, pensate ai gioielli i gioielli, oppure per esempio gli orologi di Bros, Braille, Rebecca, De Carlo, Chimento, Miluna, insomma dovete andare a trovare questa gioielleria perché è forbidissima. E poi se andate a vedere le vetrine outlet, cioè quelli che vengono di fronte, al 50% potete comprare tutto quello che volete. Chi compra più di 30 euro, beh, c'è un simpatico regalo in omaggio, un gioiellino in omaggio. Poi le ceramiche della ditta Zaffiro, che si chiamano Gerbino in questo momento Armao, sita incontrata a Torrazza sulla strada del 113, e tantissima oggettistica, vasellami di terracotta, ma sono pezzi veramente pregiati, anche su richiesta andatelo a trovare, incontrata Torrazza, sempre sotto Stemo di Camastra, e potete farvi realizzare dei capolavori veramente straordinari. In ultimo, la cooperativa agricola Vegna Nebrodi, per gustare il maiale, il suino nero dei Nebrodi, la salsiccia dei Nebrodi e i piatti tipici che si cucinano in quelle zone. E poi per dormire, beh, non c'è problema, Bed & Breakfast a Porta Palermo. Dunque, io direi di fermarci un attimo, di ascoltare un altro brano musicale e poi sentiremo la voce del sindaco di Cefalù. Intanto vi ricordo l'appuntamento con Cronostorica Cefalù Gibilman in memorial di Angelo Castiglia. Cefalù promo sport in Ormanni con il patrocinio del Parco delle Madonie, Regione Siciliana, Città di Cefalù, l'ACI, Comune di Gratteri e Provincia Regionale di Palermo, con la radio ufficiale, naturalmente CRMP Radio, dal 6 al 7 ottobre 2012. Quindi andiamoci a godere questa storica cronoscalata Cefalù Gibilman, ci sarà sicuramente da divertirci. Poi vi dovrò dare un'informativa su delle nuove leggi che sono uscite sul Bancomat. Per esempio, dal 2014 cambia, dal 1 gennaio 2014 è previsto l'obbligo per commercianti e professionisti di accettare pagamenti, pensate, elettronici. La decisione sul limite dell'utilizzo dei contanti, precedentemente posta a 50 euro, è rimandata a un futuro decreto. Invece c'è un'altra notizia che riguarda l'RC Auto. Allora, il contratto di assicurazione obbligatorio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, si legge nel decreto legge, non può essere stipulato per una durata superiore all'anno e non può essere tacitamente rinnovato. Il testo prevede inoltre la creazione presso il nuovo ISVAP, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, e l'IVAS, di una centrale antifrode. E allora rieccoci in diretta, sono esattamente le 12.50 e 41 secondi in questo momento, siamo sempre su Carta e Penna, su CRM Happy Radio, potete seguirci anche su Facebook, scriveteci se volete, oppure su www.crmpradio.it. Per le puntate precedenti andate su podcast e cliccate, insomma scegliete voi il palinsesto delle puntate precedenti. C'è una notizia su Cefalù, tra poco avremo in diretta il sindaco di Cefalù, il dottor Rosario Lapunzina. Cefalù riapprovato il bilancio il 2009, ma è scontro, in 5 lasciano l'aula. Il Consiglio Comunale riapprova il bilancio 2009 come ordinato dalla Corte dei Conti e 5 consiglieri di opposizione protestano abbandonando la sala delle capriate perché non vedono bene la manovra economica. Motivo del contendere sono i 900 milioni di residui che l'amministrazione inserisce nel bilancio per cancellarli e l'opposizione grida lo scandalo perché sarebbero stati già cancellati con la manovra economica del 2008. A far venire fuori la questione è stata Patrizia Messina. Il sindaco Rosario Lapunzia e il responsabile del servizio finanziario Giuseppe Vacca tranquillizzano i consiglieri dicendo che tutto è in regola. È a questo punto che l'unica donna in consiglio annuncia di abbandonare l'aula. La seguono gli altri componenti della sua compagine. Prendo la parola infatti il capogruppo di Grande Sud, Vincenzo Liberto, e comunica l'uscita dalla sala dicendo che qualcuno cerca di fare il prestigio, ma non ci riesce ancora. Su questo argomento è stato mandato in onda integralmente in diretta radiofonica il Consiglio Comunale, quindi molti di voi saranno già al corrente di quello che è successo durante la seduta consiliare. Dicevamo prima, torniamo al discorso degli incendi, vediamo se il sindaco è disponibile all'intervista. Dicevamo prima, ci sono delle casse, tutte le casse comunali, anche la provincia e la regione, ormai i soldi sono finiti, dicono loro, però a quanto pare poi alcuni consiglieri provinciali, alcuni capi gruppo, alcuni gruppi consigliari, insomma, si sono appropriati di fondi di una certa entità. Pensate, 80 milioni, quello di Fiorito è la punta di un iceberg, per cui veramente il cittadino comincia a pensare e sentirsi preso veramente per i fondelli, perché così è, altrimenti non si spiegherebbero case, auto, villeggiatura sulla neve, insomma. Questi signori se ne impipano. Se una persona di 70 anni, 80 anni che ha lavorato un'intera vita non riesce neanche a pagare la bolletta della luce o del telefono. Comunque è un argomento che affronteremo subito dopo. Intanto abbiamo in diretta il dottor Rosario Lapunzia, sindaco di Cefalù. Rosario, buongiorno sindaco. Ciao Filippo. Grazie per aver accettato l'invito, come saluti sempre. Saluti tutti i radioascoltatori. Non ho dubbi, ti sento sereno e vorrei che tu restassi tale. Allora, lo sai, io ho avuto il piacere di ascoltare la puntata precedente domenica scorsa, dove ti sei lanciato in una filippica straordinaria, devo dire, e poi naturalmente sta a voi, a te e alla controparte capire come stanno effettivamente le cose. Sta di fatto però, come diceva il tuo collega Marezzolini, che ho avuto poc'anzi in trasmissione, il grande danno che si è venuto a creare. A Cefalù quanto ammontano i danni stimabili più o meno? Ma guarda, stiamo facendo una stima, anche perché c'è tanta gente che sta comunicando i danni che ha avuto a casa, gli impianti, per cui ci sono oltre i danni di tanto territorio bruciato, oltre 1.000 ettari, e ci sono anche i danni, diciamo, che riguardano i privati, i cittadini, che stiamo cercando di quantificare. Abbiamo fatto una prima relazione al Dipartimento di Protezione Civile Regionale. Sì. Speriamo che ci sia questa dichiarazione di stato di calamità a cui possiamo accedere anche noi, ma io penso che i danni saranno sicuramente oltre i 7 milioni di euro. Senti, Maria Zolina mi diceva che vi state costituendo, voglio dire, parte civile anche su probabili incendiari, ma questo è da venire. Per quanto attiene invece quello che dicevi tu poco fa, cioè della calamità naturale, bisogna che lì, insomma, siate veramente forti anche della gente che vi deve appoggiare, perché vero è che non è stato un evento naturale, è stato un evento voluto, però i disastri sono enormi, Saro. Guarda, certamente la responsabilità spetta agli organi inquirenti, e sicuramente si sta già lavorando, perché sono certo che questo lavoro da parte della magistratura, anche da parte, diciamo, delle forze di polizia, non cessa mai rispetto a quello che potrebbero essere, diciamo, probabili responsabili. In ogni caso io devo dire che la collettività ha ricevuto un danno enorme. C'è stato anche il pericolo, e io ho temuto tantissimo per la stessa cittadina di Cefalù, quando il fuoco ha scollinato al santuario Gibilmanna e poteva anche scendere per il bosco Samonà, Romito e tutto il resto. Un momento anche molto particolare è stato quello quando il fuoco con forte vento ha preso da Caprioli, poi è sceso a Pianopero e poi appunto per per la zona di Barreca, San Francesco, zona Ferla. Evidentemente vedremo che cosa farà la regione. In ogni caso io devo dire che questa contemporaneità di incendi in tutta la provincia, in tutta la regione, possiamo dire, ma io mi fermo alla provincia, è stato un qualcosa veramente di incredibile. Abbiamo passato tre giorni, quelle che mi riguardano sono tre giorni molto pesanti. Ci sono state delle polemiche, io sto ai fatti, non sto alle polemiche. I fatti sono quelli che ho descritto: il Canadair ha lasciato il fronte fuoco quel pomeriggio dopo pochi voli per fine turno, e lo SDO che era presente ha lasciato il fronte fuoco senza accertarsi che venisse un altro aereo. Il sindaco, che è il capo della protezione civile, si è adoperato da lì per 48 ore di seguito, ma da lì a poco ha chiamato anche rinforzi, disturbando Sua Eccellenza il prefetto, che è stato di una cortesia, di una cortesia unica, che ha avuto nei confronti del nostro comune una particolare attenzione. Di questo pubblicamente io ringrazio quantomeno qualche responsabile dell'istituzione, insomma, c'è, che è una persona intelligente. Io devo dare atto che Sua Eccellenza la prefettura, Sua Eccellenza il prefetto, si è adoperato. Devo dire che, ripeto, non voglio fare ancora polemiche, però è chiaro che un Canadair che finisce il turno e va via col fronte fuoco può essere lasciato in servizio ancora per quelle poche ore, dalle 16.30 alle 18.20, 18.15, quando si può ancora sorvolare la zona per cercare di tentare di spegnere il fuoco. Dare qualche ora di straordinario in più a qualche pilota e assicurare minori danni, certo. Minori danni penso che era qualcosa che era possibile fare. No, due cose mi hanno lasciato basito, sindaco, e lo diceva prima il tuo collega Azzolini, nel senso che intanto da 10-12 aerei siamo scesi a 7 perché l'estate era finita. Non so chi è stata la persona preposta a queste cose a pensare che sia finita l'estate a settembre in Sicilia, e quindi hanno decurtato del 50% le forze aeree che potevano intervenire. Lo spending review ha colpito anche questa flotta degli aerei, questa possibilità di intervento dei Canadair sulla nostra isola. Sono a disposizione, io ho ricevuto, come tutti gli altri sindaci, su richiesta di Sua Eccellenza al prefetto, che ha fatto al COAU di Roma, il dipartimento della presenza del Consiglio dei Ministri ha scritto una lettera a Sua Eccellenza del prefetto e a tutti i sindaci, comunicando che la flotta a disposizione dell'intera Sicilia è soltanto di 7 Canadair. Poi ci sono degli elicotteri che però purtroppo svolgono l'attività soltanto come bonifica dopo un incendio, ma non possono intervenire con la stessa diciamo determinazione di acqua, certo. Determinazione dei Canadair. Per cui devo dire che c'è stato una contemporanea di incendi che non ha permesso, diciamo, altri interventi, però noi avevamo già un Canadair, e quel Canadair che era stato assegnato a Cefalù, in una zona vastissima di territorio che bruciava, perché ricordiamo che il fuoco è partito da Isnello Castelbuono, è salito per le montagne, è andato su fino all'osservatorio, passando anche dai campi di golf, e poi diciamo che per noi era importante che quel Canadair rimanesse. Senti, sindaco. È andata, cercheremo di fare il punto della situazione anche con l'aiuto dei colleghi sindaci, di trovarci negli anni futuri in una situazione simile. Speriamo che non accada mai più, perché è stato un suicidio per la Sicilia, tutti questi boschi incendiati, tutti questi danni, penso ai comuni di Tusa, come anche ai comuni di San Mauro, come tutti gli altri comuni, insieme al comune di Cefalù, che hanno avuto tantissimi danni, per cui io penso a tantissima vegetazione, a tanti boschi che sono andati in fumo, come anche a tantissima gente che ha perso alberi da frutta, alberi olivo, e perché non dire anche parte degli impianti di casa, se non alcuni che hanno addirittura avuto la casa bruciata. No, diceva il sindaco di San Mauro che c'è stata gente che ha perso veramente tutto, cioè anche il sostentamento. Bravo. Evidentemente questo, ripeto, perché lo considero un suicidio? Perché la nostra terra, che è una terra che ha bisogno di sviluppo, ha bisogno di risorse, ha bisogno di crescere, che addirittura poi diventa sempre più povera dopo questi incendi. Evidentemente chi ha chi ha delle responsabilità enormi su questo incendio deve farsi veramente un grosso esame di coscienza. Sindaco, due domande stringatissime a chiudere. La prima, cosa si pensa di fare, cosa pensate di fare voi sindaci, costituire, diceva Azzolini prima, anche un consorzio con quelli della provincia di Messina, visto che i dati poi si sono verificati anche su Tusa, Castel di Lucia, cioè la zona limitrofa a San Mauro, per cui rientriamo nel territorio di Messina. Ma guarda, io ci confronteremo con gli altri sindaci, io non ho sentito l'intervista di Mario, però francamente con Mario sono in ottimi rapporti e come collega lo stimo, come lo stesso fa lui, a lui nei miei confronti, però dico ci confronteremo con tutti gli altri sindaci, c'è una prima riunione che avremo la prossima settimana. In ogni caso ti posso dire cosa farò io il prossimo anno. Sì. Comincerò a lavorare da subito per fare una mappatura completa di quei terreni che sono stati nel tempo abbandonati. Sì. La prevenzione è un obbligo per noi sindaci, per cui assieme alla forestale che dovrà farsi carico per quelle che sono le sue competenze, vedremo di fare una mappatura completa di quei terreni, di quelle proprietà che non vengono pulite da molto tempo, e a loro farò arrivare una bellissima ordinanza dove chiederò che i terreni vengano puliti, e qualora questo non si faccia, evidentemente il sindaco si sostituirà facendo lavorare un po' di gente e caricando le spese a questi soggetti che non puliscono. Questo per quanto riguarda l'aspetto. Potrebbe essere un'idea. Già quest'anno, nonostante io ho letto l'8 maggio, ti devo dire che molto territorio comunale, è stato pulito grazie all'intervento degli operai dell'azienda forestale che hanno dato una mano, ma anche di tanti lavoratori in mobilità, in cassa integrazione, che hanno aiutato l'amministrazione comunale di Cefalù. Per cui l'anno prossimo ci faremo trovare meno impreparati, più attenti e anche più severi rispetto a coloro i quali non puliscono il terreno da molto tempo. Ci sono molti soggetti che abbandonano la proprietà, evidentemente questo non può più accadere, non deve più accadere. Dunque l'ultimissima, e poi ti lascio al tuo sano divertimento, perché ho dato l'annuncio insomma che stavi giustamente a fianco a tuo fratello, che oggi ha una giornata stupenda, si sposa, per cui tantissimi auguri da parte della redazione, anche da parte mia personale. Sì, un augurio a mio fratello particolare. Senti, no, per chiudere, un'idea ve la siete fatta su come mai questi incendi appiccati in diverse parti delle Madonie, ma soprattutto Cefalù, San Mauro, c'è qualcosa secondo te che potrebbe portare a qualcosa? A capire quantomeno? Ripeto, non mi lascio andare in ipotesi che poi no, ma non ripeto, quello che mi lascia perplesso e sarà la riflessione che faremo anche con i colleghi sindaci, è della contemporaneità degli incendi, ma che sia un'azione rivolta al nostro territorio, no, questo lo escludo. Ok. Ti ringrazio sindaco, sei stato molto esaustivo, come sempre chiaro, e voglio dire, quando c'è da dare il bastone lo dai, ma anche la carota, perché no? Si vede da qui che ami. Grazie Filippo. Filippo, ti faccio i miei complimenti sempre per la tua grande professionalità che dimostri presso CRM P Radio. Ringrazio Cefalù Radio Madonia che ha svolto e svolge sempre un ruolo importante di informazione per la nostra città. Siamo qui e per non questo. Solo perché il bacino di utenza è molto vasto. Cefalù Radio Madonia, CRM P Radio, è stato una di quelle radio che è stata particolarmente colpita da questo incendio. Ricordiamo che è stato totalmente distrutto il ripetitore, come anche tutto quello che era attorno, per cui io sono vicino come sindaco all'editore, al proprietario della radio, che è persona che conosco da oltre 30 anni. Noi ti ringraziamo, e io mi permetto di ringraziarti anche a nome dell'editore, che in effetti insomma il danno l'abbiamo subito tutti come famiglia, ma lui personalmente poi come editore. Si evince da questo il grande spirito d'amore, il grande attaccamento che tu hai verso questa terra, verso questa città di Cefalù. Ti auguro un buon viatico per il futuro, che possa sorriderti e, perché no, renderti un quantomeno più sereno nel proseguo del tuo mandato. Ti ringrazio a nome della città. Grazie a te, grazie Rosario, buon lavoro e buon divertimento per oggi. Grazie. Era il sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina. Io direi a questo punto, prima di salutarci, di darvi l'appuntamento per domenica prossima per le 9.30. Chi vuole seguire la puntata da lunedì su podcast lo può fare andando su CRM, su www.crmepiradio.it. E perché no, telefonate, potete anche interagire con noi su Facebook. L'appuntamento per giovedì prossimo, parleremo di altre storie, di altre questioni, speriamo meno pesanti, meno brutte, ma più belle. E cos'altro dirvi? Vi auguro buon weekend all'insegna ancora del bel tempo, senza incendi ci auguriamo, Se potete, fatevi una bella camminata in quei boschi che ancora qualcuno ci consente di lasciarci come dire, respirare e amare. Se ciò non potesse essere possibile, beh, pazienza, noi ci auguriamo sempre in bene, e con tutto il bene che io vi voglio, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. L'appuntamento a giovedì prossimo, stessa ora, stesso programma. Grazie ancora, a risentirci. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione a cura di